Siamo in compagnia di Ferdinando Vaselli, autore e attore dello spettacolo Paura e Delirio, insieme ad Alessia Berardi in scena a Roma, Carrozzerie Not, 19 e 20 aprile. Ferdinando, ben ritrovato. Grazie, anche a te. Allora, ci racconti un po' di questo lavoro? Allora, proviamo a riassumere, perché siamo in dirittura d'arrivo, domani è il debutto e quindi siamo piuttosto confusi, e questa è una nota a favore nostro, nel senso che siamo stanchi però soddisfatti, perché abbiamo fatto un lavoro abbastanza lungo, ricerca sui quartieri della città, che stiamo continuando, che è partito da qualche anno. L'anno scorso siamo stati a Carrozzerie e quest'anno siamo al Teatro Studio 1, ed è il tema che ci interessava trattare su questo lavoro. Parte da interviste, è il tema della paura, la paura intesa come paura di tutto quello che è l'esterno, dall'immigrata agli immigrati. Infatti molti quartieri su cui abbiamo lavorato sono legati proprio alla forte presenza di immigrati, e quindi da lì abbiamo tirato fuori delle storie. Queste storie sono diventate una storia, non è la storia di due fratelli che vivono insieme in una casa e stanno da tanti anni, non hanno nessuno, lei non esce da casa da non sa quanto tempo, lui fa l'animatore per bambini, ha fatto un sacco di cose, dice lui, e ad un certo punto questa invasione degli stranieri, delle malattie, di tutta una serie di paure che lui instilla da fuori, li porta in qualche modo a prendere una decisione estrema, anche perché c'è un'invasione da parte degli stranieri, degli immigrati, quindi si comprano la casa e loro non pagano l'affitto e quindi decidono di fare un'azione estrema. E da lì succedono una serie di dinamiche terribili, surreali, divertenti e allo stesso tempo emozionanti, in cui alla fine i ruoli si ribaltano. Senti, una curiosità, Ferdinando, più o meno quante interviste avete realizzato nel corso di questo tempo? Ma abbiamo lavorato, come numero non te lo saprei dire, forse una trentina, 40, diciamo, di interviste. Il nostro lavoro è molto legato partendo proprio dalle interviste, alla trasformazione in qualcosa che diventa un'azione teatrale, a delle situazioni che magari possono essere all'interno dell'intervista anche marginali, che però riassumono, ci fanno scattare in testa un click a noi e alle persone che partecipano poi, che hanno partecipato alla costruzione attraverso anche i laboratori. Quindi abbiamo intervistato, che ne so, pure un ragazzo di casa Pound, abbiamo intervistato immigrati di vario tipo, abbiamo intervistato dei ragazzi di seconda generazione, abbiamo intervistato le signore, abbiamo intervistato i nuovi, come dire, gli studenti, diciamo un campionario abbastanza vasto di persone. Senti, più o meno zone periferiche? Allora, a Crocco, che era il laboratorio da cui siamo partiti l'anno scorso, a Carrozzerie Notte, Stadio Marcello Castaldi, dove facciamo lo spettacolo, e Rein, quartiere, l'abbiamo chiamato a Crocco perché è un quartiere intermedio. Sì. Non si capisce se è Porta Portese, se è Trastevere, se è Monteverde, Testaccio, o se è a Viale Marconi. Sta in una zona, diciamo, di passaggio, e abbiamo lavorato proprio su questa idea di passaggio. Poi quest'anno, ad esempio, abbiamo lavorato su Torpignattara, quindi in un certo senso Torpignattara è uno dei simboli della Roma multietnica. Sì, sì, sì. Senti, la paura principale, da quanto racconti, sembra essere quella dei migranti, il che mi fa tornare in mente, giorni fa ho visto un documentario sulla Brexit, e molte interviste agli inglesi, che è anche piuttosto buono perché della Brexit l'abbiamo saputo solo dai mass media, invece sentir parlare la gente e quasi tutti, oltre ai burocrati di Bruxelles, tiravano in ballo la migrazione. E una di queste ragazze intervistate è andata in una zona operaia, lei invece era contraria alla Brexit, e ha cominciato a fare domande agli operai chiedendo se loro conoscevano direttamente qualche migrante, se sapevano qualche caso diretto di migrante che aveva tolto il lavoro a qualcuno, e comunque tutte le risposte erano negative, il che fa pensare a quanto i mass media siano poi responsabili invece di queste paure. Sicuramente la comunicazione assume un ruolo importante, poi voglio dire, c'è chi ci vince le elezioni, non solo in Italia facendo questo tipo di politica. Io credo che sia una paura più ad alta, dovuta probabilmente ad una perdita della propria identità, no? Spesso anche attraverso le interviste usciva fuori questo passato vagheggiato, no? Per Sì. chi mi appara come un quartiere dove si sparava, però se sparava dove potevi tenere la porta aperta, tanto per citare una cosa, no? Quindi ci si ammazzava ma con molta più allegria, oppure c'era pieno dei delinquenti, però erano persone d'onore, no? Che la gente buttava lì per terra come adesso, capito? Quindi una visione del passato che è un passato immaginato e pregiato, forse il presente invece che viene identificato spesso e volentieri come migrante. Infatti questi due progetti sono proprio gli ultimi della classifica, della graduatoria, di che cosa fanno se la riprendono in continuazione con gli immigrati, no? Perché infatti un po' da sinistra adesso sembra che si voti a sinistra solamente se si è ricchi. Quindi è interessante questo cortocircuito che si è creato e racconta anche uno spaccato della società. Senti, si tratta di una prima questa a carrozzeria notte. È una primissima, che doveva essere in origine un'anteprima, poi noi improvvisamente abbiamo deciso di trasformarla in una prima. Un appuntamento in cui pensiamo di capire se quello che abbiamo immaginato e pensato funzioni, però ci crediamo molto a questo lavoro. Ho visto che come riferimento web c'è l'evento Facebook. Sì, come riferimento web c'è l'evento Facebook, quindi basta andare sul sito di Carrozzeria Nord sia sul sito che sulla pagina Facebook di Carrozzeria Notte, Carrozzeria Notte, non mi ricordo com'è, e guardare, c'è un numero che si può prenotare, i posti stanno quasi per terminare, e quindi se volete venire, affrettatevi perché mi sa che è un po' difficile per fortuna. Ci vediamo a Carrozzeria Notte. Un abbraccio, Ferdinando. Ciao, Ciao. ciao, ciao a tutti, ciao.